Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Anni fa, dal dicembre 1758 al luglio dell'anno successivo, Carlo Goldoni fu a Roma su invito dello Stato Pontificio per dirigere personalmente la rappresentazione delle sue commedie. Ma il pubblico romano, poco abituato alle maschere veneziane, chiedeva che sul palco salisse Pulcinella. La partenza dell'artista e della moglie, Nicoletta Connio, avvenne il 23 novembre 1758. I coniugi transitarono per Loreto e visitarono quella città. A Roma, il primo incontro con la compagnia teatrale che Goldoni avrebbe dovuto guidare non fu positivo. I comici, infatti, erano ancorati alle rappresentazioni a soggetto delle maschere e non erano abituati alla commedia scritta. Da pochi mesi, dal luglio 1758, sedeva sul soglio di pietro un papa veneziano, Clemente XIII, al secolo Carlo Rezzonico. A Padova, dove era stato vescovo, aveva conosciuto Goldoni. Nella stessa città era stato denominato il santo per l'illibatezza dei suoi costumi e per la sua profonda pietà religiosa. Il commediografo fu ricevuto in udienza e il pontefice lo intrattenne cordialmente per tre quarti d'ora, informandosi soprattutto dei suoi familiari residenti in Venezia. Quando il papa suonò il campanello a indicare che l'udienza era finita, si registrò un piccolo incidente. Goldoni, che si era profuso in inchini e attestazioni di ringraziamento, vide che il pontefice non era soddisfatto. Muoveva le gambe e le braccia, tossiva e guardava insistentemente il suo ospite. Lo scrittore comprese allora che aveva dimenticato il bacio del piede, prescritto dal cerimoniale. Subito si prosternò e il vicario di Cristo lo congedò definitivamente, colmandolo di benedizioni. Continuarono per diversi giorni le visite di cortesia a cardinali, ambasciatori ed esponenti della nobiltà. L'autore veneziano non trascurò la visita dei monumenti romani e fu particolarmente impressionato dalla Basilica di San Pietro. Il padrone di casa del Goldoni in Roma, identificato nell'abate Pietro Poloni, aveva messo a disposizione un alloggio di 4 camere con le finestre che davano sul corso. L'abate aveva una moglie e una figlia. Sembra che le vicende di quest'ultima e del suo fidanzato abbiano ispirato allo scrittore una delle sue migliori commedie, Gli innamorati. L'accoglienza fu cordiale. L'abate dava in casa dei concerti e si dilettava di cucina. Ogni giorno c'era a tavola un piatto da lui preparato per l'avvocato Goldoni. Il commediografo, infatti, aveva studiato legge e aveva anche esercitato con successo la professione. Si voleva mettere in scena la vedova spiritosa, ma già la prima prova non fu felice. A Roma non recitavano le donne e le parti di Donna Placida e di Donna Luigia erano state affidate a 2 garzoni, uno di un parrucchiere, l'altro di un falegname. L'autore nel complesso non rimase soddisfatto né della declamazione né delle movenze degli attori e il testo venne abbreviato di circa un terzo. Si arrivò alla rappresentazione al teatro di Tordinona, ma la commedia non fu apprezzata. Gli spettatori reclamarono a gran voce la maschera di Pulcinella, alle cui farse erano abituate, e il Goldoni si allontanò prima della fine dello spettacolo. Si pensò allora di continuare nei canovacci di tema napoletano, intercalati da intermezzi musicali dei quali Goldoni avrebbe combinato gli argomenti su arie parodiate. Effettivamente il primo intermezzo rappresentato, dal titolo Arciferano, re dei matti, fu gradito dal pubblico. Non solo, ma al teatro Capranica piacque la Pamela. Si trattava di una fortunata opera giocosa del Goldoni, cantata già a Venezia nel carnevale del 1750 e replicata nel 1755 con musica del Galuppi. Lo scrittore ricorda nelle sue memorie che la composizione sostenne da sola lo spettacolo per tutta la stagione, e cioè dal 26 dicembre 1758 fino al martedì grasso dell'anno successivo. Si chiese all'autore di dare un seguito a una produzione tanto apprezzata. Venne così scritta la Pamela maritata, che però fu rappresentata sempre al Teatro Capranica soltanto nel carnevale del 1760 e non con grande successo. A Roma il Goldoni compose 2 poemetti in ottave, La visita delle 7 chiese e La pubblica confessione. Quest'ultima è una confessione semiseria fatta ai suoi sodali dell'Accademia dell'Arcadia. Nello stesso periodo iniziò anche la commedia La scuola di ballo. Lo scrittore, abituato al carnevale di Venezia, non poteva non essere interessato a quello romano. Nell'urbe il periodo era limitato alla settimana grassa, mentre in molte altre parti d'Italia i festeggiamenti iniziavano alla fine di dicembre o al principio di gennaio. Inoltre a Roma si poteva indossare la maschera soltanto per 3 ore, dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Era imponente però in quei giorni lo spettacolo del corso, la strada che da Piazza del Popolo scendeva al Palazzo San Marco. Solo da circa 20 anni, dal 1736, usufruiva di una regolare pavimentazione in selci. Il Goldoni la ricorda con 4 file di carrozze lussuosamente decorate, delle quali le 2 laterali erano spettatrici di quelle che passavano nel centro. Sui marciapiedi, una folla di maschere si dedicava a scherzi, mimica e canti, e veniva effettuato un nutritissimo lancio di coriandoli. Il momento centrale del periodo carnevalizio era costituito dalla corsa dei cavalli berberi, che venivano lanciati da Piazza del Popolo e ripresi all'estremo opposto del corso. Per tale spettacolo, l'abate Poloni affisse in un balcone del suo appartamento un cartello nel quale era scritto a grandi lettere «Riservato all'avvocato Goldoni». Pur disponendo di sole 8 finestre, il Poloni aveva invitato ben 60 persone e gli ospiti non rispettarono la destinazione del migliore posto di osservazione allo scrittore veneziano. L'abate riuscì però a sistemare sul balcone al suo fianco il Goldoni, il quale poté così vedere la corsa a suo agio. Anche per la Quaresima a Roma si faceva musica e si giocava a carte. Era molto in uso il gioco della bestia e il Goldoni nota nelle sue memorie che se c'era pericolo che una signora andasse in bestia, bisognava mettere in tavola una carta bassa per evitarle tale disagio. Lo scrittore sottolinea però che nulla lo impressionò favorevolmente a Roma come le cerimonie della Settimana Santa. Fu particolarmente colpito dalla celebrazione della messa pontificale nella Basilica Vaticana, dalla lavanda dei piedi e dal canto del Miserere nel giorno del Venerdì Santo. Per la festività liturgica di San Pietro, il Goldoni era ancora a Roma. Vide così la cupola illuminata e la girandola, simile, come egli ricorda, a un torrente di fuoco lanciato nell'aria dall'impeto dei vulcani. Assistette anche alla festa della Chinea, ossia alla consegna di un palafreno bianco al pontefice, a simbolo di soggezione e obbedienza da parte del reame di Napoli. La consuetudine si concluderà nel 1788, con la soppressione della cerimonia e del connesso tributo. Nel luglio 1759 il Goldoni lasciò l'urbe, con gran dispiacere dell'abate Poloni, il quale, finché visse, continuò a tenere corrispondenza con il commediografo e a inviargli ogni anno l'Almanacco di Roma. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Cerasa «Al teatro davano Goldoni, ma il pubblico voleva Pulcinella» dall'Osservatore Romano del 7-8 gennaio. Letture di Radio 24. Dalle pagine del Corriere della Sera ascoltiamo la lettura di un commento di Bernard Henri Lévy sui bombardamenti israeliani a Gaza. Non essendo un esperto militare, mi astengo dal giudicare se i bombardamenti israeliani su Gaza potevano essere più mirati, meno intensi, poiché da decenni non sono mai riuscito a distinguere fra morti buoni e cattivi, o, come diceva Camus, fra vittime sospette e carnefici privilegiati. Sono evidentemente sconvolto anch'io dalle immagini dei bambini palestinesi uccisi. Detto questo, e tenuto conto del vento di follia che una volta di più, come sempre quando si tratta di Israele, sembra impadronirsi di certi mass media, vorrei ricordare alcuni fatti. 1. Nessun governo al mondo, nessun altro paese se non l'Israele attuale, vilipeso, trascinato nel fango, demonizzato, tollererebbe di vedere migliaia di granate cadere per anni sulle proprie città. In questa vicenda, la cosa più sorprendente, il vero motivo di stupore non è la brutalità di Israele, ma letteralmente il fatto che si sia trattenuto così a lungo. 2. Il fatto che i Qassam di Hamas, e adesso i suoi missili Grad, abbiano provocato così pochi morti non prova che siano missili artigianali, inoffensivi o altro, ma che gli israeliani si proteggono, vivono rintanati nelle cantine dei loro edifici, nei rifugi. Un'esistenza da incubo, in sospeso, al suono delle sirene e delle esplosioni. Sono stato a Sderot, lo so bene. 3. Il fatto che le granate israeliane facciano al contrario tante vittime non significa, come sbraitavano i manifestanti dello scorso weekend, che Israele si abbandoni a un massacro deliberato, ma che i dirigenti di Gaza hanno scelto l'atteggiamento inverso, di lasciare quindi le loro popolazioni esposte. Una vecchia tattica dello scudo umano che fa sì che Hamas, come Hezbollah, 2 anni fa, installi i propri centri di comando, i depositi di armi, i bunker, nei sotterranei di abitazioni, ospedali, scuole, moschee. Tattica efficace ma ripugnante. 4. Fra l'atteggiamento degli uni e quello degli altri esiste comunque una differenza capitale, che non hanno diritto di ignorare coloro che vogliono farsi un'idea giusta e della tragedia e dei mezzi per porvi fine. I palestinesi sparano sulle città, in altre parole sui civili, e questo, in diritto internazionale, si chiama crimine di guerra. Gli israeliani prendono come bersaglio obiettivi militari e, senza volerlo, provocano terribili danni civili, e questo, nel linguaggio della guerra, ha un nome: danni collaterali, che, seppur orrendo, rimanda a una vera dissimmetria strategica e morale. 5. Poiché bisogna mettere i puntini sulle i, ricordiamo ancora un fatto al quale stranamente la stampa francese non ha dato risalto e di cui non conosco alcun precedente in nessun'altra guerra da parte di nessun altro esercito. Le unità Detzal, durante l'offensiva aerea, hanno sistematicamente telefonato, la stampa anglosassone parla di 100.000 chiamate, ai cittadini di Gaza che vivono nei pressi di un bersaglio militare per invitarli ad andarsene. Che questo non cambi nulla rispetto alla disperazione delle famiglie, alle vite stroncate, alla carneficina, è evidente. Ma che le cose si svolgano così non è, tuttavia, un dettaglio totalmente privo di senso. 6. Infine, quanto al famoso blocco integrale imposto a un popolo affamato, che manca di tutto e precipitato in una crisi umanitaria senza precedenti, di fatto non è proprio così. I convogli umanitari non hanno mai smesso di transitare, fino all'inizio dell'offensiva terrestre, per il punto di passaggio Kerem Shalom. Solamente nella giornata del 2 gennaio, 90 camion di viveri e di medicinali hanno potuto, secondo il New York Times, entrare nel territorio. Tengo a ricordare, infatti, è inutile dirlo, anche se, secondo alcuni, sia meglio dirlo, che gli ospedali israeliani continuano, nel momento in cui scrivo, ad accogliere e curare tutti i giorni i feriti palestinesi. Speriamo che i combattimenti cessino al più presto e speriamo che al più presto i commentatori tornino in sé. Allora scopriranno che sono tanti gli errori commessi da Israele negli anni, occasioni mancate, lungo diniego della rivendicazione nazionale palestinese, unilateralismo, ma che i peggiori nemici dei palestinesi sono quei dirigenti estremisti che non hanno mai voluto la pace, mai voluto uno Stato, e hanno concepito il proprio popolo solo come strumento e ostaggio. Immagine sinistra di Khaled Mekal, il quale il 27 dicembre, mentre si precisava l'imminenza della risposta israeliana tanto desiderata, non sapeva far altro che esortare la propria nazione a offrire il sangue di altri martiri, e questo lo faceva dal suo confortevole esilio, ben nascosto, a Damasco. Oggi delle due l'una: o i fratelli musulmani di Gaza ristabiliscono la tregua che hanno rotto e dichiarano caduca una carta fondata sul puro rifiuto dell'identità sionista, raggiungendo il vasto partito del compromesso che, Dio sia lodato, non smette di progredire nella regione, e allora la pace si farà. Oppure si ostinano a vedere nella sofferenza dei loro compagni solo un buon carburante per le loro passioni riacutizzate, il loro odio folle, nichilista, senza parole. E allora bisognerà liberare non solo Israele, ma i palestinesi dall'oscura influenza di Hamas. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Bernard Henri Lévy, Liberare i palestinesi da Hamas, dal Corriere della Sera del 7 gennaio. Ha destato molte polemiche l'occupazione di Piazza del Duomo a Milano da parte di un gruppo di musulmani che domenica scorsa protestavano contro i bombardamenti israeliani a Gaza. Secondo Giulio Meotti, si è trattato di una vera e propria dichiarazione di guerra. Qualcosa è avvenuto e piano piano lo stiamo decifrando. Una vasta, silenziosa distesa di fedeli musulmani raccolte in preghiera davanti al Duomo di Milano. Usano un gergo muscolare, bellicoso, lanciano strali contro lo Stato di Israele, bruciano i drappi con la stella di Davide su fondo bianco, come se fosse un'effigie satanica. A guidare la preghiera c'era il controverso Istituto di Studi Islamici di Viale Jenner, al centro di numerose indagini della magistratura, per le accuse di terrorismo, oltre che pista di lancio per alcuni giovani mujahideen diretti a Baghdad senza ritorno. I manifestanti non sono arrivati in Piazza Duomo per caso, come dicono gli organizzatori. avevano scelto un simbolo del cristianesimo occidentale e lo hanno fatto sotto la guida sapiente dell'imam di Viale Jenner, Abu Imad, già condannato per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Lì hanno inneggiato ad Allah all'ombra della Madonnina. Quella piazza non è germinata in seno a un Islam percepito a misura d'uomo, rispettoso della laicità delle istituzioni. Era il ramo dell'Islam politico che non separa Stato e Moschea, la fratellanza musulmana, il cui slogan non è mai cambiato dai tempi di Hassan al-Banna. Allah è il nostro obiettivo, il profeta il nostro leader, il Corano la nostra legge, il Jihad la nostra via. Morire sulla strada di Allah è la nostra più grande speranza. L'islamismo che ha conquistato il centro di Milano, perché di questo si tratta, non di una mera massa di pacifici dimostranti musulmani, prevedeva lo sgombero senza permesso della piazza, che ha costretto la stessa cattedrale a chiudere. Quella distesa spettacolare e armonica è stata come un guanto tragico sulla faccia di noi sfidati. L'illusione della pace culturale veniva strozzata lentamente, scandita dall'invocazione coranica, in una morsa realista e cruda. Non sono piombati dal nulla e di notte quegli oranti, lo hanno fatto di giorno e sotto il naso di tutti. Domenica a Milano non era in gioco il diritto di tutti di pregare o di non pregare. Non si parlava della liceità di usare uno spazio pubblico per una manifestazione religiosa. È stato un blitz simbolico senza precedenti. Gli islamisti puntano su una pedagogia che non ha paura delle parole e che sulle parole fonda la propria forza. Per questo la preghiera aveva valore assoluto, vincolante. La piazza di Milano, così piena di musulmani della seconda generazione, ragazzi nati e cresciuti fra le nostre case, nelle nostre scuole, in mezzo a noi, ci parla poi del fallimento del conversionismo multiculturale. L'idea, cioè, che sia possibile trasformare i musulmani in secolaristi liberal. L'idea che fosse scontato che i musulmani potessero essere assimilati all'ambiente secolarizzato. L'idea, infine, che avendo conosciuto la modernità, ne sarebbero stati sedotti fino al punto di rinunciare all'ethos guerriero. Quello riunito a Milano era in maggioranza un Islam pronto a scagliarsi contro i non credenti e i musulmani eterodossi, gli agnostici, i laici, i non praticanti, i semipraticanti, i trasgressori della morale islamica, con particolare accanimento verso le donne, da sottomettere per ricostruire una nuova società conforme alla Sharia, da imporre con ogni mezzo. Dopo la processione musulmana di domenica, sfociata nel capovolgimento iconico dell'olocausto ebraico, con Israele paragonato al Terzo Reich, la cultura cattolica però è rimasta silente. È sembrata mancarle la deterrenza, la decisione e la volontà di far pesare la nostra scelta in favore dei diritti umani universali e dello Stato di diritto nei nostri territori sovrani. Cosa sarebbe successo se una donata di fedeli cattolici avesse riconsacrato simbolicamente quelle due piazze? Quali sarebbero state le reazioni anche da parte degli stessi che oggi insinuano il dubbio del fondamentalismo islamico imperante? Se un corteo di dimostranti cattolici avesse marciato fino alla moschea di Roma in segno di protesta contro la strage seriale di cristiani iracheni? Quella di Milano non era una piazza pacifica, non era una manifestazione di libertà di coscienza. Non era il moderno esercizio di libertà religiosa. Lì non c'era neppure alcuna dissimulazione. Era una dichiarazione di guerra politica e culturale, un micidiale segno dell'accerchiamento della laicità occidentale che abbiamo già visto inscenato nelle piazze di Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino. Gli islamisti di Milano avevano dalla loro parole come Dio, morte, guerra, apostasia, sottomissione, obbedienza, fedeltà e paradiso. Mentre i martiri, gli Shahid continuavano a prepararsi sotto il cielo tragico di Gaza, ripetendo la loro verità eroica. Amiamo la morte più di quanto voi amiate la vita. Anche dentro l'Islam è in corso una guerra tra chi ama la morte più della vita e chi difende la vita rischiando la morte. È necessario che la reggenza teologica del mondo islamico si faccia carico di questi 30 anni di stragismo e decapitazioni e del negazionismo su cui pesa la morte di migliaia di musulmani innocenti per mano di altri musulmani. Piazze come quelle di Milano non aiutano. Le cose cambieranno quando 500 musulmani manifesteranno per le vie di Milano brandendo una lettera scritta un anno fa in Arabia Saudita. È del grande religioso Salman al-Auda, uno dei padri del risveglio religioso. Quanti innocenti, tra bambini, anziani, deboli e donne, sono stati uccisi o resi senza tetto nel nome di Al-Qaeda. Sarai felice, Osama, al cospetto di Dio con tutte queste centinaia di migliaia o milioni di morte sulle spalle. Allora sarà possibile sperare di vincere la guerra culturale. Fino ad allora, ripeteremo che a nutrirsi di un odio mortale contro Israele si finisce per scatenare un implacabile effetto boomerang, una sorta di autoannientamento, con la fossa delle vittime ricolma di ebrei, cristiani, politeisti, non credenti, musulmani eretici, ma da ultimo, di tutti i musulmani. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti «Basta fingere, la presa del Duomo è una dichiarazione di guerra» dal Foglio dell'8 gennaio.